che il tempo sia una cura, una bugia, ma non so dire qual è il vero, qual è il no. Solo sento come se morisse una parte di me e questa stanza resta vuota senza te. Imprecando contro il cielo e contro me. Non so dire ancora se riuscirò un giorno a credere che la mia vita è migliore senza te. Sentire le mie